FM。 Questa è un po' anche un classico durante le serate, durante i diversi DJ set, perché questa piace particolarmente a Gravelli, che è sempre stato un grandissimo fan degli Strokes. Tu Gravelli sei un grandissimo Strokes alla fine. Dai, che mi svegli Gino, per carità, la nostra mascotte sta dormendo. No, Gravelli il trombone, no, se lo svegli poi te lo porto di là e ci devi giocare. Ieri ha scoperto il mocio ed è stata una cosa bellissima, perché ha scoperto il mocio e quindi lo attacca. Sì, il mocio l'avevo io, perché ovviamente avevo pulito, ecco, e lo stavo portando al suo posto e lo stavo trascinando perché non avevo voglia di, e notavo che questo mocio era sempre più pesante. A un certo punto mi giro, il piccolo Gino, che ripeto ha 50 giorni, quindi veramente un batuffolino, era seduto sul mocio e si divertiva ad attaccarlo. Ci sta regalando dei momenti bellissimi, noi lo adoriamo e in questo momento sta dormendo fortunatamente, perché quando è sveglio rompe un po' troppo i coglioni, nel senso che giustamente essendo un cucciolo vuole continuamente giocare, ma è bellissimo fino a quando dorme. Saluto Fabio, dice: questo pezzo degli Strokes mi ricorda i primi tempi in cui vi ascoltavo e già vi adoravo, siete grandi. Grazie Fabio. Saluto Giulio 65, Silent Lucidity, se rispondete al telefono i complimenti li prendete dal vivo. Hai ragione, però di solito durante la diretta è difficile che insomma il telefono sia attivo. Saluto anche Frinz 78 da Castel San Pietro Terme, dice: bella Claudia, scatta la lacrimuccia. Sì, Renato da Lucca, buongiorno, ascoltare questa canzone e sapere che tra una settimana non ci sarete più mi sta venendo il magone. Guarda, non mi parlate di magoni, di lacrime, perché in questi mesi è stata una cosa incredibile. E, beh, una settimana, sì, in effetti una settimana. Beh, tra una settimana inizierà la super mega diretta, dai, tra una settimana ci siamo ancora. Saluto Giada, ma questa versione dei Queensryche su che album è? Allora, cara Giada, se non sbaglio è stata registrata nei nostri studi, quindi non è in commercio. Noi abbiamo registrato un sacco di cose carine nel corso di questi anni, quindi chissà dove finiranno. Saluto anche il nostro sborone, vuole portarci il gelato, il freezer c'è, sì, però è piccolino, quindi non so quanto gelato. Ah, ci tocca mangiarlo subito, quindi che bello, che bello. Devo dire che in questi giorni siete qualcosa di eccezionale. Anzi, ne approfitto per salutare Paolo, che ieri ci ha portato dei pasticcini meravigliosi. Oggi sono arrivate delle torte, mamma mia, delle torte buonissime, quelle fatte in casa, che sono da 1 a 10 buone 20. E noi, ecco, tra una settimana cosa faremo? Sicuramente un sacco di attività sportiva, perché stiamo ingrassando da far schifo. Ora ci sono i Rammstein, queste zone. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt sie laut bis 10. Carino anche il video con Biancaneve. Eh sì, i Rammstein, questa era Zonne. A proposito, se lo ricorda anche Tina, le mando un bacione. Saluto Serena da Savona, dice stai mettendo dei pezzi bellissimi. Bene. Dice, a sabato 31, spero, dai, passa, se ci riesci ovviamente. E saluto anche Sonia, dice, ma dove la trovo un'altra radio così? Ho imparato più in un anno con Rock FM che nel resto della mia vita, non potete chiudere. Ma no, non è che noi chiudiamo, e ci fanno chiudere, perché non tutti sono così intelligenti da capire l'importanza di una radio rock. E dice, dal 1 giugno mi sintonizzo su Radio Maria e prego, così magari cambiano idea e chiudono qualche altra radio. Sì, in effetti io avrei un nome di un'altra radio che potrebbe tranquillamente chiudere, perché è tanto uguale a tutte le altre, e anzi forse è un po' peggio, no, non si può ascoltare. Io ce l'avrei un nome, però non ci ascoltano. E quindi, cara Sonia, dai, preghiamo tutti. Tra l'altro, tra tutti gli ospiti che avremo, ci sarà anche il frate Rock. E chi è un abitué del Gods of Metal lo conosce molto bene, perché lui apre proprio il Gods of Metal. Lui è bellissimo, con questa barba, sembra un po' Babbo Natale. Ed è meraviglioso. E ha fatto un disco. E noi lo ospiteremo, perché abbiamo bisogno in questo periodo di una buona parola, abbiamo bisogno di una persona che ci porti sulla retta via, e infatti quel giorno cercheremo di moderare le parole, saremo tutti assolutamente dei bravissimi ragazzi, e passeremo i P.O.D. tutto il giorno. No, però adesso, no, lui tra l'altro, uno pensa, con un frate, insomma, bisogna stare attenti, una cosa quell'altra, il linguaggio, lui è veramente rock, nel senso che... Ovviamente anche lui sta molto attento al linguaggio, però ogni tanto gli scappa qualcosina anche a lui, eh. Ah sì. E poi è bello, cioè è proprio simpatico. E lo avremo ospite, abbiamo bisogno di una buona parola, lo mandiamo ad esorcizzare. No, vabbè. Saluto anche Brutus, dice, ma settimana prossima la programmazione com'è? Anarchy on the air? Assolutamente sì. Poi, saluto. Chi? Francesca da Imola dice, a questo punto la domanda sorge spontanea, ma dopo aver chiuso una radio così, cosa ci toccherà ascoltare? Cosa ci sarà al vostro posto? Tremo già. Guarda, e fai bene a tremare, perché tra un po' sulle nostre frequenze, radio vera, sì. Sintonizzatevi dal 1 giugno in poi, così fatevi un giro, fatevi due risate, poi ovviamente spegnete la radio. Oggi sono particolarmente vipera, infatti è meglio che cambiamo discorso, anzi tra pochissimo parleremo di Kid Rock, ha fatto una cosa molto carina, lo ascoltiamo con American Badass. Are you scared? Without a cause, and I'm back with the beaver hats and Ben Davis slacks. 30 pack of Stroll, 30 pack of hoes. No Rogaine in the propane flows. The chosen one, I'm the living proof. With a gift and gab from the city of truth. I jab and stab and knock critics back. And I did not stutter when I said that. I'm going platinum selling rhymes. I went platinum 7 times. And still they ill and wanna see us rise. I guess because the only God knows why. Why? They call me cowboy. I'm the singer in black. So throw a finger in the air. Let me see where you're at. Say, hey, hey. Let me hear where you're at. Say, hey, hey. I'm giving it back. So say, hey, hey. Show me some metal and say, hey, hey, hey, hey. Fuck all y'all. Cephas, Beasties, and the Kings of Rock. Skinner, Seeger, Limp, Korn, the Stones. David Allen Coe with No Show Jones. Yeah! Pass that bottle around. Got the rock from Detroit. Soul from Motown. The underground stone. Fucking pimp. With tracks that Mac and slap back the whack. Never gain away. I don't play with that. But watch me rock with Liberace Flash. Punk rock the class. Boy bands are trash. I like Johnny Cash and Grandmaster Flash. Like a bunch of wounded ducks. When you don't learn, sucker, you just can't fuck with. Listen. Ascoltato allora con American Badass. Allora, a proposito di Kid Rock, stavo leggendo il giornale, perché Kid Rock legge il giornale, e ha trovato questa notizia abbastanza inquietante. Praticamente questi Boy Scout di Orlando, Florida, hanno tipo nel corso di 7 anni raccimolato pochi soldini, e con questi soldini avevano preso degli attrezzi, tipo, adesso ve li dico quali attrezzi potevano essere, non ricordo, comunque degli attrezzi per i Boy Scout. E è arrivato uno stronzo che glieli ha rubati, e quindi questi poveri Boy Scout hanno detto: ma no, ci abbiamo messo 7 anni per comprare tutto, adesso non abbiamo più nulla. Ed era uscito un articolo sul giornale, e Kid Rock, che alla fine è un tenerone, è andato da questi ragazzi, gli ha staccato un assegno da $10,000, e i ragazzi così si sono ricomprati tutto. Che carino, che carino. Quindi sappiamo già chi mandare un altro video massaggio, certo, un altro video messaggio. Allora, Brian May ci ha risposto, è stato un grande, un signore, però ci ha detto che purtroppo non può comprare una radio, visto che siamo un po' lontani e ne ha già a che fare con un'altra. Kid Rock, potremmo mandare una nostra foto a Kid Rock, e una nostra foto però vestiti da Boy Scout, così un po' di tenerezza magari nasce e ci compra. E magari ci fa una sede anche a Los Angeles, perché no? O anche in Florida. Darebbe assolutamente molto bene. Vedremo, vedremo. Intanto un po' di saluti. Saluto Lore da Firenze, sono assolutamente d'accordo con te. Sergio da Milano, sì, è quella. Scusate se rispondo così, ma già ogni tanto devo tappare, devo stare contare fino a 10, quindi. Ecco, andiamo. Saluto anche Andre, dice: mi raccomando, dal 1 giugno non portate più niente in radio. È vero, cari ascoltatori, noi dal 1 giugno in poi non ci siamo più, quindi se volete passare tutto entro il 31. Saluto Monsignor Fefo, saluto Yuri da Ravenna, dice: nello stesso periodo autunnale dovrebbero venire in tour anche Slayer, Trivium e Mastodon. Caro Yuri, è un altro sti cazzi, qui ci sta, cioè, Slayer, Trivium e Mastodon. Trivium potrebbe essere, visto che sono in studio, hanno detto che non faranno assolutamente festival quest'estate. Mastodon pure, Slayer, vabbè, una volta che partono in tour stanno in giro per anni. Poi loro si guardano sempre molto volentieri. Qualcuno mi chiede, scusate, potete ripetere la parte degli Slipknot e dei Children? Mi sono perso la parte di quello che fanno queste band, faranno dei concerti, ma si parla di questo pacchetto. Sapete che spesso volentieri le band si uniscono e... si parla di questo pacchetto per il periodo autunnale, ovvero Slipknot, Machine Head e Children of Bodom, o Children of Bobom, come li chiama un mio amico, ed è assolutamente serio, ve lo giuro. Anzi, lo saluto, ciao Elio, si chiamano Children of Bodom, te lo diciamo magari dopo 10 anni. Saluto anche Roby, un bacione. Ho appena fatto uno slam dive sui cartoni in cortile ascoltando i Rage Against the Machine, grandissimo, grandissimo. Intanto continuiamo con la musica, vi ricordo 335-100-7777 claudia@rockfamily.it per le vostre mail che tra poco leggeremo. Intanto vi lascio con i Coheed and Cambria, ancora una volta con The Running Free. Running. Molto bello il loro ultimo album, sto parlando di The Blackening, dal quale abbiamo riascoltato Now I Lay It Down. Loro ovviamente erano i Machine Head visti in Italia in occasione del Black Crusade Tour, è stata una bellissima serata, purtroppo per i Machine Head non è stata una bellissima serata perché il loro chitarrista si è sentito male durante il concerto, è finita un po' male quella giornata, però si sono esibiti ad esempio anche i Trivium, gli Arch Enemy, c'erano anche quei matti, come si chiamano, adesso non ricordo il nome, Dragon Force, che non c'entravano assolutamente nulla con il Bill a livello musicale, però insomma qualcosina di diverso ci stava, poi loro sono fuori di testa, bellissimi. Now Lay It Down, Machine Head, piccola pausa, tra pochissimo i Boston.